siamo dai 3 anni a pattinare, 3-4 anni nelle scuole materne, fino a quando uno riesce a venire in polisportivo. Uno degli ultimi due che si sono venuti a meno, 92 anni, venivano a prendere la pastiglia con la Coca-Cola la sera e il bastone in polisportiva. Capito? Quindi per dire che, ecco, vuol dire essere aperti a tutti e dare quello che è possibile, col cuore a tutti, insomma. Il suono è sostanzialmente femmina, in quanto è il suono madre che proprio lega trasversalmente tutte le culture, cioè ci sono pochi universali nella musica, ma che il suono nasca dalla pancia della madre terra, poi lo possiamo raccontare, ma andremo avanti molto nel tempo, però questa cosa è forte, quando lo senti, quando sei lì che suoni quel tamburo là, o suoni quello, o ti senti che comunque questa cosa ti prende nella pancia, va là che ci vai indietro nel tempo, cioè non c'è bisogno di farsi dei viaggi da... Potrei immaginare la sacca come una grande sinfonia di Haydn, un impianto gigantesco, variopinto, con diversi movimenti, diverse strade, l'una completamente opposta dall'altra, con caratteri diversi che convivono nello stesso contenitore. Il progetto calato dall'alto. La fuga, no? Il tema contrappuntistico architettato dal genio del compositore, la strada dopo il gran canto popolare molto rozzo, e con il gesto di umorismo, il gesto di danza, e tutto alla fine fa un impianto coerente all'interno del quale si può vagare, vedendo, prendendo ciò che è utile per sé.